credevo che da quando stavo con te tutto ciò che vivevo sarebbe stato per sempre, ma non è così, tutto finisce, si sa. Quando poi ti innamori pensi se passerà, ma non passerà mai l'amore che io provo per te, per noi. No, non finirà mai questo dolore che ho, che ho. Hai distrutto in me la voglia di rivivere con te. Hai lasciato che tutto finisse così tra noi. Forse è colpa mia, forse è giusto così. Ciò che mi hai dato l'ho custodito in me. Ora non servirà fare finta di che, fare finta di non provare nulla per te. E poi sarebbe scontato dire un'altra bugia, dire che non mi piace, solo pura follia. Tu mi piace, lo sai, è da tempo che ormai provo a dirtelo, ma cercarti non servirà.